Sicuramente Erdogan esce da queste elezioni indebolito per vari motivi, perché per esempio il suo partito, AKP, Giustizia e Sviluppo, ha perso il Parlamento, nonostante l'alleanza con i nazionalisti si permette di avere ancora la maggioranza in Parlamento, ma soprattutto perché è dovuto arrivare al ballottaggio per poter essere confermato, quindi evidentemente non è più l'uomo forte che con un voto diretto e con la maggioranza assoluta riesce a rimanere saldamente al potere. È evidente che le opposizioni si aspettavano molto di più, si aspettavano sicuramente che l'alleanza e la coalizione guidata dal candidato di opposizione Kılıçdaroğlu vincesse almeno le elezioni presidenziali. Ovviamente questo poi doveva essere anche un elemento di forza per avere buona affermazione delle elezioni parlamentari, perché ricordiamo che il presidente senza un Parlamento o con un Parlamento con voto contrario a fatica a fare politica anche in Turchia, quindi evidentemente le opposizioni si aspettavano molto di più. Ci sono tante ragioni che possono spiegare l'affermazione di Erdogan, le politiche che lui ha portato avanti in questi anni, ma soprattutto la motivazione che lui ha dato con il suo atteggiamento populista, nazionalista, a tanti ad andare a votare, e anche xenofobo, razzista, che ha portato tutta la classe politica turca a spostarsi verso destra. E ricordiamo che se c'è un vero vincitore di queste elezioni è proprio il partito nazionalista di MHP, perché non solo ha aumentato il suo seggio in Parlamento, ma è anche diventato un ago della bilancia per le elezioni presidenziali, perché proprio le affermazioni precedenti al voto di Sinan Ogan, che era il terzo candidato al primo turno, sono state decisive per la vittoria di Erdogan. Questo dimostra che la società turca è una società polarizzata, con delle divisioni interne fortissime, e appunto in questo scenario la sinistra verde, HDP, Partito Democratico dei Popoli e tutti i candidati di opposizione hanno fino a questo momento ricoperto un ruolo di minoranza. Ecco, Kılıçdaroğlu dell'opposizione tra il primo e il secondo turno, in attesa del ballottaggio, abbiamo visto che ha virato su posizioni molto più autoritarie per avere i voti dell'estrema destra, quindi con lui sarebbe stato diverso alla fine per le minoranze che vivono in Turchia? Nella coalizione il cartello elettorale, pensando per esempio ad alcuni parlamentari che ho anche avuto modo di intervistare in queste settimane, come Selen Akça, il punto che avanzavano era quella necessità, era quella di togliere, girare, di voltare pagina rispetto al tema di Erdogan. È evidente che questa alleanza tra repubblicani di CHP e il Partito Democratico di HDP non ha fatto bene né gli uni né gli altri, perché questo ha spinto il fatto di essersi alleato con la sinistra filocurda, alcuni tradizionali voti repubblicani a non essere espressi, quindi una minore affluenza, cosa che vince anche con una minore affluenza al secondo turno delle elezioni presidenziali, e dall'altra parte anche tanti di HDP che, appunto, come ricordarvi, non hanno votato con piacere il candidato di CHP per le sue posizioni, possiamo anche dire, molto contraddittorie o anche vicine a quello dell'altro candidato, nel momento in cui ha parlato per esempio di mandare a casa 10 milioni di profughi, e quindi tutto questo sulle spalle della minoranza, dei migranti siriani che si trovano in Turchia dopo lo scoppio del conflitto in Siria. E ricordiamo che gran parte di questi migranti poi alla fine sono curdi, quindi si ritorce tutto contro la minoranza curda, che viene colpita sia nelle sue espressioni politiche più consolidate di HDP e dei partiti che sono entrati per la prima volta in Parlamento nel 2015, sia dal basso, perché quando si attaccano i migranti siriani indirettamente si attacca anche tutta la comunità curda. Nei prossimi anni di governo Erdogan possiamo aspettarci un'offensiva sempre più intensificata nei confronti delle minoranze curde in Turchia e anche quelle oltre confine in Rojava? La domanda da questo punto di vista per me dovrebbe essere se c'è spazio per i curdi nella politica turca. Secondo me non c'è molto spazio nella politica turca, purtroppo, per la sinistra filocurda ormai. Ci sono stati 177 arresti di manifestanti, ci sono stati video che mostravano il candidato Kılıçdaroğlu con esponenti del PKK, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e Ocalan, per discreditarlo, quindi se vengono utilizzati i curdi solo per discreditare il candidato, già questo, il fatto di usare la comunità turca in senso negativo è un elemento di preoccupazione. Ci sono stati attacchi gravissimi agli osservatori del voto a Cisre, Accari, Urfa, Mardi, Michele, città curde, e quindi questo fa pensare che c'è spazio per i curdi, ma per i curdi nazionalisti, perché poi i curdi di Huda parlano non hanno avuto nessuna difficoltà a votare per Erdogan, a partecipare al voto, ma per i curdi di sinistra, per i curdi più vicini ai lavoratori, più vicini ai movimenti dal basso, alle municipalità di Idlib nel sud-est della Turchia, per loro c'è molto poco spazio. Ricordiamo che ci sono state le tensioni di massa a Cari dopo il voto, e poi appunto quello che succede ad Afrin, perché una delle speranze era quella che la vittoria di un candidato di opposizione avrebbe portato alla fine dell'occupazione dei cantoni curdi nel nord della Siria. Sono stati spari dei mercenari pro Erdogan in questi cantoni, quindi è molto evidente che adesso con Erdogan al potere il nuovo avrà un ruolo centrale e continuerà a esercitare il suo controllo i cantoni che reggiava. Ieri ci sono state delle dichiarazioni di Demirtas, che è il leader di HDP in prigione, che ha parlato di questo voto come un'operazione governativa piuttosto che un processo elettorale equo. I curdi continuano ad affermare che non si è trattato di elezioni democratiche, di elezioni libere, di elezioni giuste, ma ci sono state disparità di condizioni durante le elezioni, e quindi chiamano la resilienza all'opposizione anche fuori dal Parlamento a continuare a esprimersi contro il regime, come se il blocco di potere, lo stato profondo, la politica dall'alto che è stata fatta in questi anni da Erdogan sia organizzata come una sorta di mafia con delle tattiche illegali che hanno portato alla sua rielezione. Uno degli esempi che si può fare di questo tipo di tattiche, di questo tipo di controllo dall'alto dello stato profondo in Turchia, è il potere che hanno sui media. I curdi hanno avuto accesso ugualitario ai media in campagna elettorale? Sicuramente no. Ci sono tantissimi report, tra questi si può citare quello di Human Rights Watch, che dice che Erdogan e la sua coalizione hanno avuto 32 ore di informazione già al primo turno e il candidato di opposizione che si dà Roglu appena 32 minuti. Se poi andiamo a vedere di questo quanto è andato alla sinistra filo curda, si avvicinerà allo zero. Questo vuol dire che c'è uno spazio estremamente marginale dei partiti curdi all'interno della politica turca, all'interno del sistema mediatico, e questo è un problema democratico. Vuol dire che non c'è una vera democrazia, vuol dire che Turchia è una non democrazia se non un regime autoritario guidato da Erdogan.